quell'error fecio, la mia bella fedele credere in fido. Leggasi ciò che scrive. Di Cesare novata tu gli scrive, Caio di Tessilagna, e un mio comando vuole che soprò quel nostro servo d'opri, perché l'antico amor tu non offendi. Pensa che tu morrai se non mi intendo. Uccise al tuo comando, ecco qui sono. Molto legnar di te, mi deggio Caio. Signor, ma mai ti fece? Ciò che tu non dovevi. Io mi confondo. Si è scoperto il mio amor, dove m'ascolto? Sai che Cesare è solo, benché tu poco stimi il mio gran potere. Favello usire, il rimorso crudele mi fa morire. Leggi, questo è tuo foglio. Cieli, son perduto. Il tuo rossore già convinto ti rende. Oh, che dolore. Parla. Tu non rispondi. Ah, mio destino, a perdere il respiro, io son vicino. Non è fuori di ragione il tuo spavento. Mentre a Clonilla chiedi quella che il tuo amore col tuo regnante, chieder solo dovresti. Il perdon pur votarti, eccoti il foglio, ella per compiacerti tu la scrive. Contento sei, signor Fortunato. Sol però ti ricordo che Cesare qui regna, allorché dopo hai dire al favor me sol richiedi, già che dell'amor mio le prove armenti.